Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Voto in autunno, Alfano contro il PD, ci costerà miliardi, aggregazioni per raggiungere la soglia del 5%, Berlusconi fosse per me, la metterei all'8, dice. Musei, respinto il ricorso del Ministero per una sospensiva del blocco dei direttori stranieri, ma con la manovrina cambiano le regole. Neonato abbandonato a Torino, è morto in ospedale, era un maschio di carnagione chiara, si analizzano le immagini delle telecamere per cercare chi l'abbia lasciato là. Lite tra quindicenni in Calabria, uno dei due tira fuori la pistola e uccide l'altro, ancora incertezza sul movente. È stata ritrovata la ragazzina scomparsa a Siracusa, adottata, era andata a trovare i genitori naturali, avevo nostalgia, avrebbe detto. 50 giorni fa la scomparsa di Igor alias Norbert Fehr nelle campagne ferraresi, ricerca senza esito e forze dell'ordine a quanto pare verso la smobilitazione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dalla quale andiamo in diretta video. In apertura dunque l'avvicinarsi delle elezioni inesorabili, come a quanto pare il ritorno del proporzionale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, si profila l'intesa a tre tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia sul sistema tedesco proporzionale con sbarramento al 5%, ciò provoca malumori nel ministro degli esteri Alfano che attacca, non capisce l'impazienza del PD di portare l'Italia al voto 3-4 mesi prima della legge di stabilità e si appella ai Dem perché evitino di costare miliardi all'economia. Poi aggiunge: ci uniremo agli altri e supereremo la soglia del 5%. Intanto Silvio Berlusconi fa sapere che se fosse per lui la soglia di sbarramento potrebbe essere addirittura all'8%. L'ex Cavaliere spera comunque in un centrodestra unito, ovvero con la Lega di Matteo Salvini. In mattinata proseguono qui alla Camera le consultazioni, mentre nel pomeriggio è prevista la direzione PD, ma il voto anticipato provoca anche le ripercussioni a livello economico, ad ammetterlo lo stesso ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Sotto ciclo elettorale in Italia, ma anche negli altri paesi, è molto difficile fare cambiamenti, bisogna pensare a meccanismi politici che permettono la transizione verso istituzioni più forti al netto dei cicli elettorali. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e alla legge elettorale, alle elezioni che si avvicinano, è dedicata all'analisi del martedì a firma del nostro Daniele Biacchessi. Sentiamo. Una cosa è certa, nonostante l'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sulla nuova legge elettorale, in caso di elezioni ad autunno nessuna maggioranza parlamentare si formerebbe con il sistema tedesco. Nemmeno un patto tra PD e Forza Italia riuscirebbe a raggiungere, stando alle attuali intenzioni di voto di tutti gli istituti demoscopici, la soglia di 316 deputati alla Camera. Il sistema elettorale tedesco, anche nella versione italiana, impone il ritorno al sistema proporzionale, una soglia di sbarramento del 5%. In sostanza, in Germania la distribuzione del voto degli elettori si rispecchia anche in Parlamento, cioè se un partito viene votato dal 30% degli elettori otterrà circa il 30% dei seggi. Tra i candidati che si affrontano direttamente nei collegi, invece, con il maggioritario, passa chi riesce ad ottenere un voto in più. Come è possibile tradurre questo sistema in Italia? Da quello che emerge, solo quattro partiti superano la soglia del 5%, PD, 5 Stelle, Lega, Forza Italia. Gli altri, tutti gli altri, sono costretti ad allearsi tra loro oppure con una delle formazioni politiche maggiori. Il risultato sarebbe quello di una fortissima instabilità politica che preoccupa i mercati finanziari e rende sempre più lontano il rapporto tra politica ed elettori. Questa dunque anche l'analisi di Daniele Biacchessi. Sullo sfondo di tutto ciò c'è naturalmente la manovrina che è in corso d'approvazione, in corso di lavorazione in Parlamento. Sentiamo. Dopo il via libera della Commissione Bilancio, la manovra bis arriva in aula alla Camera, dove nel pomeriggio quasi certamente il governo chiederà il voto di fiducia. Tra le ultime novità introdotte nel provvedimento ci sono la norma che salva i direttori stranieri dei musei dopo la sentenza del TAR, l'esclusione dei fondi pensione dal bail-in, il prestito ponte da 600 milioni per Alitalia e l'addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Nel testo entrano anche le nuove norme sulla lavoro occasionale, al posto dei voucher arrivano i libretti famiglia e il contratto di prestazione occasionale riservato alle imprese con meno di 5 dipendenti. Ciascun lavoratore non potrà ricevere compensi superiori a 5.000 euro e non più di 2.500 dallo stesso datore di lavoro. Tra le varie misure previste dalla manovrina ci sono poi la stretta sulle slot machine, gli indici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore e l'estensione di Sisma Bonus ed Eco Bonus. Anche Bed and Breakfast e Case Vacanza infine dovranno riscuotere le tasse di soggiorno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi il Presidente del Consiglio Gentiloni incontra l'omologo canadese. Siamo in linea con Alessandra Schepisi per farci raccontare un po' che cosa succede, se è iniziata la conferenza stampa oppure no. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. L'incontro con il Premier Gentiloni è cominciato alle 12 a Villa Madama ed è attesa una conferenza stampa che dovrebbe tenersi a minuti. Un incontro che arriva a conclusione del viaggio del primo ministro canadese Trudeau in Italia. Questa mattina visita a Montecitorio e ieri fitta agenda di incontri, prima con il Papa, poi con il Presidente della Repubblica Mattarella. Domenica invece ad Amatrice per portare solidarietà alla cittadina colpita dal terremoto e la presenza poi all'Olimpico, dove Trudeau ha indossato la maglia numero 10 di Francesco Totti. Dunque non solo una visita strettamente istituzionale, ma un viaggio alla scoperta dell'Italia, quello del premier canadese, uno dei più ammirati al G7 di Taormina, che il prossimo anno assumerà la presidenza del vertice a Charlevoix in Quebec. Intanto proseguono poi gli incontri invece dopo il G7 siciliano. Oggi Angela Merkel ha visto il premier indiano Narendra Modi a Berlino. Le relazioni con gli Stati Uniti sono di importanza capitale, ha detto la cancelliera, sottolineando però che per la Germania e l'Europa sono molto significativi anche altri rapporti internazionali, e citando India e Cina. L'Europa deve essere presente nel mondo e deve avere una politica estera comune, ha detto ancora la Merkel. E da Roma per ora è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. È una giornata importante quella di oggi per l'Ilva. Vediamo di fare un punto con Domenico Palmiotti. Domenico, buongiorno. Buongiorno Simone. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda svela il piano della cordata ArcelorMittal Marcegaglia, il piano proposto dai commissari come quello più vantaggioso per quanto riguarda il passaggio dell'Ilva. Calenda, nell'incontro con i sindacati che ha appena cominciato al Mise, farà un punto della situazione sui due piani presentati, quello della cordata Jindal, Cassa Depositi e Prestiti, Arvedi e Del Vecchio, e quello ovviamente messo in pole position di ArcelorMittal con Marcegaglia. Ci aspettiamo un confronto sostanziale, non di rito, ha detto Marco Bentivogli, il segretario generale della FIMCISL, entrando al Mise. Per noi punti prioritari rimangono la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio industriale e ambientale della fabbrica. In questi ultimi giorni si è parlato molto della diversità dei due piani. Un elemento messo in evidenza è il fatto che Jindal manterrebbe l'occupazione intorno ai 10.800 unità, invece il piano di ArcelorMittal avrebbe degli esuberi e scenderebbe a circa 8.000 addetti. Però fonti vicini al dossier sottolineano che il piano di ArcelorMittal Marcegaglia nel breve e medio periodo è il migliore per quanto riguarda sia l'aspetto occupazionale sia l'aspetto retributivo. Ieri c'è stato il via libera alla proposta dei commissari del Comitato di Sorveglianza del Mise, oggi il confronto con i sindacati, la decisione finale, ovvero il decreto di aggiudicazione dell'Ilva da parte del ministro Calenda, è attesa nelle prossime ore. E grazie dunque a Domenico Palmiotti, vedremo come andrà a finire. Passiamo alla cronaca che ci porta a Torino innanzitutto, dove è morto un neonato che è stato abbandonato. Era stato appena partorito da poche ore all'alba. Lo hanno trovato alle 6.30 in via Turati 2, in un quartiere di case popolari di Settimo Torinese tra il centro e la ferrovia. Un passante, un operatore ecologico, ha notato sul ciglio del marciapiede il fagotto che conteneva il piccolo, un maschietto di carnagione chiara avvolto in un asciugamano. Nonostante l'allarme immediato al 118 ai carabinieri e a tutti gli abitanti che si affacciano sulla strada, il neonato all'arrivo dei sanitari era già in arresto cardiaco. È stato rianimato, intubato e trasferito d'urgenza a Regina Margherita all'ospedale infantile del capoluogo, dove però è deceduto poco dopo l'arrivo nel reparto di rianimazione. Indagano i carabinieri di Chivasso anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo testimoni presentava lesioni e sarebbe stato lasciato avvolto nell'asciugamano per farlo ritrovare subito. In ogni caso, basterebbe una culla termica. Mauro Stronati, presidente della Società Italiana Neonatologia. Sarebbe stato anche sufficiente lasciarlo in terapia intensiva neonatale, in una patologia neonatale e al nido. In ogni caso, le mamme possono telefonare a un numero verde che è l'800 32 0023, che è attivo dal lunedì al venerdì, è un telefono per dare ascolto. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca per una storia che arriva invece dalla Calabria, dove a 15 anni un ragazzino ne ha ucciso un altro della stessa età, un coetaneo. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente dovuto ad un gioco finito male o se sia scoppiata una lite a causa di una fidanzatina contesa, ma un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di pistola da un coetaneo. Il fatto è avvenuto a Mileto, nel Vibonese, ieri sera. La vittima è un giovane del posto, Francesco Prestia. Il presunto assassino è un 15enne, figlio di un noto pregiudicato della zona, arrestato a gennaio per narcotraffico. Dopo la tragedia è stato lo stesso piccolo omicida a consegnarsi ai carabinieri. In queste ore, accompagnato dai suoi legali e da alcuni familiari, viene sottoposto ad interrogatorio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura per i minori di Catanzaro. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia. Una ragazzina di 12 anni è stato amputato un piede dopo che è stata colpita da un tram all'angolo tra via Dupré e via MacMahon a Milano. È accaduto pochi minuti prima delle 8. Secondo quanto ricostruito finora, la ragazzina stava attraversando l'incrocio al di fuori delle strisce pedonali ed è rimasta incastrata sotto il tram che arrivava a velocità molto ridotta. L'ATM ha comunicato che il conducente infatti è riuscito a frenare in soli 3-4 metri. Si conclude invece bene la vicenda di una ragazzina di 13 anni scomparsa e poi ritrovata in Sicilia. Aveva salutato velocemente le amiche ed era corsa via dall'uscita secondaria della cittadella dello sport a Siracusa. Dalle 19 di ieri sera, dopo la quotidiana lezione di nuoto sincronizzato, si erano perse le tracce di Marica. La ragazzina, 13 anni, è stata ritrovata questa mattina a Paternò, in provincia di Catania, a casa della famiglia naturale dove si era rifugiata. Alla base dell'allontanamento sembra ci siano stati alcuni litigi con i compagni di scuola e piccole incomprensioni con i genitori adottivi con cui vive da 4 anni. Gli agenti della squadra mobile, con familiari e compagni di scuola, avevano battuto tutta la notte le campagne attorno alla città. Poi la svolta, anche grazie al tam-tam lanciato dagli amici sui social network. Avevo nostalgia dei miei familiari, si è giustificata con gli investigatori. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siracusa. Restiamo in Sicilia per un'inchiesta che ha portato alla scoperta di un buco da 14 milioni di euro per quanto riguarda il conservatorio di Catania. Sentiamo. 23 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza a conclusione di un'indagine sull'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, che ha portato alla scoperta di un buco di bilancio da 14 milioni di euro. L'indagine, denominata The Band, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e vede il coinvolgimento complessivo di 38 persone indagate a vario titolo per i reati di peculato continuato, ricettazione, riciclaggio e associazione delinquere finalizzata al riciclaggio. Gli indagati, nei confronti dei quali il GIP ha emesso un'ordinanza cautelare che prevede 6 arresti in carcere e 17 i domiciliari, sono tutti funzionari e dipendenti dell'istituto e persone giuridiche esterne all'ente pubblico. Nei loro confronti è stato disposto anche il sequestro preventivo equivalente di beni per 14 milioni di euro. I particolari sono stati resi noti anche dal procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro. La misura ha colpito le persone di cui abbiamo accertato la penale responsabilità. Vi sono un direttore amministrativo che per anni ha firmato senza comprendere e un direttore amministrativo successivo che invece comprende ma gli si falsifica la firma. L'attività predatoria da parte dei dipendenti infedeli del Bellini di Catania ha minato seriamente la solidità finanziaria dello stesso Istituto Bellini, che, lo ricordiamo, è uno dei 5 poli di altissimo perfezionamento musicale a livello europeo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, questo il quadro per quanto riguarda la giornata dal punto di vista tanto della politica economica, quanto della cronaca. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Come promesso ieri in chiusura di trasmissione, oggi è giornata nella quale torneremo ad occuparci della fuga di Norbert Fehr, il criminale serbo, inizialmente noto come Igor il Russo, che ha fatto perdere le sue tracce da 50 giorni dopo aver compiuto due omicidi, a quanto pare, a quanto raccontano i quotidiani, ma ci faremo dare qualche dettaglio in più. Sta iniziando una sorta di smobilitazione delle forze dell'ordine dopo appunto 50 giorni di ricerche infruttuose, e addirittura c'è stato ieri un incontro con i cittadini da parte delle forze dell'ordine per parlare proprio di sicurezza ai cittadini delle zone, soprattutto le campagne del Ferrarese, nelle quali i carabinieri hanno fatto una sorta di tutorial su come comportarsi in caso di sequestro di persone, nel caso che veniate sequestrati. Il traffico e poi ci arriviamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del voto che sembra arrivare in autunno con la nuova legge elettorale. Clotilde ci scrive via SMS, dice: ma voi avete capito come mai andremo a votare in autunno? Come mai c'è questa corsa a votare in autunno? Io personalmente una piccola idea me la sono fatta, ossia il fatto che bisognerà fare una manovra, e non è detto che questa manovra sia così delicata nei confronti dei cittadini, e può darsi che nessuno se ne voglia prendere la responsabilità prima di andare al voto che altrimenti dovrebbe essere dopo la manovra, e quindi si vuole votare prima di fare la manovra. Abbiamo parlato anche appunto della manovrina, quella di correzione dei conti, che è in corso di approvazione al Parlamento. Abbiamo parlato di un neonato abbandonato a Torino che purtroppo è morto, e del ritrovamento invece di una ragazzina che era comparsa a Siracusa, che è vicenda che aveva creato molte preoccupazioni. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, e iniziamo, dopo aver saltato l'appuntamento di ieri, ma lo abbiamo fatto volutamente, iniziamo dalla vicenda di Norbert Fehr. Il nome è questo, in realtà è più noto a tutti come Igor il Russo, anche se russo non è, è serbo. Qualche ascoltatore mi ha scritto l'altro giorno lamentando una sorta di come se fosse una sorta di complotto antirusso questo fatto di definirlo Igor il Russo. No, è Igor il serbo, è Norbert Fehr, è serbo. 50 giorni di ricerche infruttuose, e poi ieri un incontro con le cittadinanze, con la cittadinanza delle zone nelle quali si sta ricercando quest'uomo da 50 giorni da parte delle forze dell'ordine, con elementi come quello di quest'audio che possiamo sentire, che abbiamo preso dal sito della Nuova Ferrara. Sentiamo. Cosa si sta verificando? Cosa posso fare? Chi è questo? Cioè, sono domande che bisogna farsi. Noi siamo qua, il numero importante, proprio perché questo non succeda. Però è come quando... E che cos'è questo? Questo è uno dei protagonisti delle ricerche, dei carabinieri, e racconta ai cittadini delle zone nelle quali si stanno effettuando queste ricerche come bisogna reagire in caso di un eventuale sequestro. Nel senso che se un uomo mi prende e mi minaccia, che cosa devo fare? È un po' il segnale, come dire, qualche ascoltatore la scrive un po' brutalmente, no? Davide da Mantova ci dice: in pratica gli abitanti hanno detto e mo sono fatti vostri, cioè noi smobilitiamo e mo sono fatti vostri. Giulio Pierini, sindaco di Budrio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Budrio è il luogo, se vogliamo, dal quale questa caccia è iniziata, perché la sera del 1 aprile Norbert Fehr ha ucciso il barista Davide Fabbri in un tentativo di rapina, dopodiché in questa fuga ha anche ucciso una guardia volontaria, Valerio Ferri, una guardia ecologica a Porto Maggiore, ma appunto tutto è iniziato, queste ricerche sono iniziate il 1 aprile. Condivide l'interpretazione un po' brutale che dà questo nostro ascoltatore? No, capisco la semplificazione, anche come dire la reazione a un a un'impostazione di informazione che è stata data da parte dei carabinieri, ma no, non è questo, anzi, mai come in questo periodo nelle zone in cui si sono concentrate le ricerche, che non riguardano il mio comune per la verità, ma una zona più a nord del comune di nella zona nord del comune di Molinelle e poi nella zona di Argenta, mai come in questo periodo, dicevo, c'è un livello di controllo del territorio e di fatto di sicurezza per i cittadini che hanno sempre vissuto in tranquillità questo territorio, quindi in realtà non c'è la smobilitazione. Ah, vabbè, ma immagino sindaco, quello di ieri non serviva questo. No, dico, immagino sindaco, e questo l'abbiamo raccontato anche altre volte, che visto il dispiegamento enorme di forze dell'ordine che c'è nella zona in questo periodo, il livello di criminalità in questo momento sia azzerato completamente, no? Esattamente. Sì. Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, mi faccia sentire sindaco, perché lei giustamente è una figura istituzionale e quindi dice quello che deve dire un uomo delle istituzioni. Mi faccia sentire da Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, ormai voce consueta qua a Radio 24 per raccontare questa vicenda, se un po' di aria di smobilitazione c'è oppure no. Daniele, buongiorno, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo così, parlare di smobilitazione non è corretto. Possiamo parlare di ridimensionamento assoluto, questo sì, anche perché dopo 52 giorni, ufficialmente ieri, i carabinieri hanno detto che Norbert Igor è ancora qui e quindi lo cercheranno ancora qui. Il fatto è che ovviamente bisogna cercarlo in altro modo. I cittadini, anche il sindaco di Budrio, esatto. I cittadini vedono che, diciamo così, c'è una minore presenza, ma questa minore presenza non significa che non ci siano delle ricerche in atto, anzi, sono, diciamo, più intelligenti, tra virgolette, più incisive, più coperte. Questa è la cosa importante. E anche, anche Daniele, scusami la brutalità, anche un po' più a risparmio, perché come si diceva, il costo, raccontava qualche settimana fa Libero, dice il costo è circa, di questa ricerca è circa 200.000 euro al giorno. Detto ciò, ricordiamo che probabilmente in questa cifra di 200.000 euro sono compresi degli stipendi agli uomini delle forze dell'ordine, che comunque verrebbero pagati, evidentemente, insomma, però diciamo che è una ricerca che ha un bel suo costo di denaro e anche un impatto d'immagine piuttosto negativo per le stesse forze dell'ordine e per il Ministero dell'Interno, no? Sì, assolutamente sì. Il problema è che i reparti speciali sono stati ridimensionati notevolmente, però sono ancora presenti per garantire questa sicurezza di cui ieri è stato dato atto in questo incontro. Io vorrei anche ricordare che voi avete sentito l'audio del nostro video e che il comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Giardina, parlava, che ha detto nella sua, diciamo così, nelle sue parole, che c'è una malattia in giro, ci vacciniamo perché non si propaghi. Questa è la similitudine che ha fatto alla situazione. E vorrei anche ricordare che ieri questo incontro, giustamente, che è stato voluto dai sindaci, che hanno fatto benissimo, i sindaci dei quattro comuni interessati, oltre Budrio, Molinella, Argenta e Porto Maggiore, ha visto che in quest'ora non si è mai parlato, se non una sola volta, di Norbert Fehr. Hanno chiamato questa persona, il sospetto, soggetto pericoloso, latitante, e hanno dato queste istruzioni per l'uso nel caso in cui ci si imbattesse in Igor Norbert Fehr. Allora la domanda che io faccio, che tanti potrebbero fare, ma non era possibile che queste rassicurazioni ci fossero date due mesi fa? Sindaco, forse sono arrivate un po' tardi queste rassicurazioni, e le chiederei anche come vi sentite, come la state vivendo, perché insomma 52 giorni così sono tanti, perché alla fine può essere discreta quanto si vuole la presenza delle forze dell'ordine, ma di fatto vivi in una zona che è semimilitarizzata. Sì, adesso non riguarda, come ho detto, il territorio di Budrio, dove la militarizzazione non c'è mai stata. Ma le ricerche sono scattate immediatamente, anche questo lo dico per ribaltare quello che alcuni hanno detto rispetto alla vittima di serie A e la vittima di serie B. Le ricerche sono scattate immediatamente e naturalmente non erano centrate in un luogo preciso nei primi giorni. Devo dire, gli inquirenti e le indagini hanno fatto un grande salto nei primissimi giorni, perché individuare, identificare la figura di questo sospetto, di questo fuggiasco, come viene chiamato, non era semplice nei primi giorni, quindi c'eravamo anche un po', come dire, caricati in quel momento, perché insomma, il fatto che immediatamente fosse stato identificato aveva fatto fare un grande salto alle indagini e anche al lavoro di ricerca. Quello che si dice qui, io ve lo riporto per quello che è, qui c'è un grande rispetto delle istituzioni, un grande rispetto dei carabinieri e quindi del lavoro che fanno. D'altro lato, ovviamente, molti si chiedono se sia ancora qui, ed è una domanda che ci siamo fatti molti, che hanno fatto anche i cronisti ieri, i cronisti l'hanno fatta ieri ai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. Per noi la vita in questo momento è una vita da post primo aprile. Per molto tempo, per molti anni a Budrio ci sarà un prima e un dopo. Per chiarire, mi scusi Pierini, può essere mal interpretato. Primo aprile è inteso come la data nella quale è stato ucciso Davide Fabbri, il barista, evidentemente. Prego. Sì, è un clima di comunità che si respira in maniera diversa. Non è cambiata la nostra comunità. Abbiamo da un lato rafforzato i nostri legami di comunità, ci siamo stretti intorno alla famiglia, ci siamo stretti intorno a un'idea di convivenza civile, di civiltà, di rispetto delle regole delle istituzioni, dall'altro lato però è cambiata la nostra prospettiva. Ecco, questo io lo dico perché è un elemento di realtà che io ho riportato immediatamente ai miei concittadini dalla sera dopo, dalla manifestazione in piazza. È cambiata la nostra prospettiva rispetto alla criminalità, rispetto alla sicurezza, rispetto a una richiesta fortissima che noi facciamo di certezza della pena per non avere escalation criminale e certezza dei rimpatri, perché quando si è scoperto che questa persona sarebbe potuta essere rimpatriata, sarebbe dovuta essere rimpatriata, poi ci sarà come dire probabilmente anche un'indagine su questo, un accertamento su questo, ma il fatto che questa persona non sarebbe dovuta essere sul suolo italiano è chiaro che ci fa impegnare ancora di più nel chiedere alle istituzioni competenti, e qui è venuto Minniti e gliel'abbiamo detto Minniti in maniera molto chiara, che ci fa impegnare ancora di più a chiedere alle istituzioni competenti di fare il loro dovere fino in fondo nell'espatriare le persone pericolose che qui in Italia non devono stare. E lo dico, ci tengo, da un comune che ha fatto accoglienza in tantissimi anni, da quando ci sono gli sbarchi, da quando c'è il dramma nel Mediterraneo. Noi siamo aperti, accoglienti, però siamo dentro un contesto di regole, dentro un contesto di rispetto delle persone, di rispetto reciproco, di rispetto di tutti. Lei dice tutto bene, accogliamo, e però i criminali che vanno espulsi vengano espulsi davvero. Daniele Predieri, come proseguiranno le ricerche? Ti sei fatto un'idea? Già ci accennavi qualcosa, dicevi qualcosa di più mirato, sei riuscito a capire di più? Sì, ovviamente le ricerche sono molto molto importanti in questo momento. Ribadisco però il fatto che ieri per la prima volta, dopo questo blackout comunicativo che c'è stato, ovviamente, perché noi siamo stati accusati di aver romanzato e aver inventato le nostre cronache anche dai magistrati, cioè abbiamo saputo, lo sapevamo perché ce lo dicevano le nostre fonti, che Igor è ancora qui, Igor Norbert Fer è ancora qui. E come lo stanno cercando? E ovviamente tutta la rete attorno, anche ieri all'incontro è stato detto che la collaborazione con i cittadini è importantissima, ma doveva essere comunicato, ripeto, 2 mesi fa questa collaborazione, dare le istruzioni per l'uso, per segnalare qualsiasi cosa. Allora, ora sono in corso queste nuove ricerche, diciamo questa nuova strategia, chiamiamola così, che è molto più mirata, non evidente. Così, non ci sono più le perlustrazioni dei reparti speciali, anche perché la zona delle ricerche si è spostata, non è più nella famosa zona rossa attorno a Mar Morta, Molinella e Campotto, ma diciamo è più a nord verso il Ferrarese. Ecco. E però la cosa importante è che si sta cercando di capire come lui possa ancora sopravvivere, perché ovviamente potrebbe avere un appoggio, è inutile che questa è la logica che lo fa pensare, e le indagini puntano ovviamente a questo, a cercare l'anello debole di questa catena che lui si è costruito attorno. Allora vedremo come andrà a finire e quando andrà a finire questa vicenda. Intanto ringrazio Giulio Pierini, sindaco di Budrio, Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, e voglio dire all'ascoltatore che guardi, io la leggo, però se mi scrive tutte le volte che ci occupiamo di questa vicenda che sarebbero bastati 4 Marines, è inutile che io lo ripeta ogni volta, è una quasi battuta, è evidente che 4 Marines non sarebbero bastati e che lei ha guardato troppi film americani. Non si sta dicendo che, come dire, che la ricerca sia, come dire, che sia stato fatto tutto perfettamente dalle forze dell'ordine italiane, ma si sta dicendo che non è che 4 Marines bastano e risolvono il problema perché arrivano come Rambo e con la faccia truccata di nero per nascondersi nelle frasche e col Kalashnikov o con i loro fucili d'assalto risolvono il problema. Non è esattamente così. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: il voto in autunno, Alfano contro il Partito Democratico, è un'operazione che ci costerà miliardi, dice, si cercano aggregazioni per raggiungere la soglia del 5%, intanto parla anche Silvio Berlusconi e dice: fosse per me la soglia di sbarramento la metterei all'8%. I musei, è stato respinto il ricorso del Ministero per una sospensiva del blocco dei direttori stranieri, quello avvenuto da parte del TAR, del quale lungamente abbiamo parlato la scorsa settimana, ma con la manovrina dovrebbero cambiare le regole e intervenire una norma che modifica le cose. Un neonato è stato abbandonato a Torino ed è morto in ospedale, era un maschio di carnagione chiara, si stanno analizzando le immagini delle telecamere per vedere chi lo abbia lasciato, siamo per la precisione a Settimo Torinese, avvolto da un asciugamano. C'è stata una lite tra quindicenni in Calabria, uno dei due avrebbe tirato fuori una pistola, avrebbe ucciso l'altro, ancora incertezza sul movente. Ed è stata ritrovata la ragazzina invece scomparsa a Siracusa, adottata, era andata a trovare i genitori naturali, avevo nostalgia, avrebbe detto agli inquirenti. Alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in diretta come sempre su Radio 24, ma anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e se volete ci potete scrivere qualcosa anche là, mentre continuate a scriverci anche via SMS, come fa Diego, che sulla vicenda di Igor sottolinea, di Igor, di Norbert Fehr, o come volete chiamarlo, dice: se passo io a 54 all'ora in paese mi prendono subito e multa, Igor invece non lo prendono, è lo stato forte con gli onesti. Questa mi sembra un po' forte francamente, Diego. Detto ciò, ripetiamo, insomma, è una vicenda sulla quale noi continuiamo a porre l'attenzione, proprio perché è paradossale, quel tratto di terra è un tratto di territorio, come dire, relativamente piccolo per quanto complicato, attraversato da molti canali, con delle cascine nelle quali ci si può nascondere, sicuramente una serie di appoggi. Qualcuno suggerisce: perché non mettere una taglia su Igor se c'è veramente qualcuno che lo protegge? Non so se sia legale una cosa di questo genere, fatto sta che insomma le ricerche stanno proseguendo, come avete sentito e come ci ha raccontato Daniele Predieri, anche con un'intensità diversa e con una modalità diversa. E ieri appunto questo incontro sulla sicurezza tra le forze dell'ordine e i cittadini e i sindaci dei comuni coinvolti da queste ricerche. Noi restiamo nel nostro giro per l'Italia a parlare, e torniamo anzi a parlare di immigrazione, a parlare soprattutto di minori. Oggi è stato presentato un rapporto dell'UNICEF, ci dà i dettagli Valentina Furlanetto. Attraversano il Mediterraneo soli, assieme ad altri bambini come loro e a degli adulti, sbarcano e poi moltissimi spariscono. Aumenta in Italia il numero dei minori stranieri non accompagnati, che sono irreperibili. Si è passati dai 1.754 del 2012 agli oltre 6.000 di fine novembre 2016. Quest'anno, con gli sbarchi in aumento, si teme che il numero sia ancora in salita. Lo dice un rapporto realizzato da UNICEF in collaborazione con il CNR. Il portavoce UNICEF Italia, Andrea Iacomini. Questi bambini arrivano disorientati, senza delle notizie adeguate, in condizioni di stress molto forti, e purtroppo spariscono, tendono a fuggire, oppure purtroppo addirittura qualcuno finisce già immediatamente perché hanno in mano degli indirizzi purtroppo di sfruttatori, oppure finiscono nelle maglie della droga, della prostituzione. I ragazzini che spariscono arrivano soprattutto da Egitto, Eritrea, Somalia, Afghanistan e Nigeria. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dunque è il quadro per quanto ci ha raccontato l'UNICEF dei minori stranieri che arrivano in Italia, una vicenda, come sapete, della quale ci siamo occupati spesso e lungamente, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza di questi minori e il problema che ha creato, soprattutto in passato, a molti comuni. Come avete sentito però, molti minori appunto sfuggono completamente dal controllo ed evidentemente scappano, a volte raggiungono le famiglie ma a volte vengono presi, come avete sentito, nella rete della criminalità. Sempre in merito a Igor, solo un paio di sms ancora che ci arrivano dagli ascoltatori. Walter che dice che ha bisogno di cibo, riparo, dormire, spostarsi continuamente, sapere dove sono i carabinieri che lo cercano, deve rischiare se lì è in zona, e secondo Walter è riuscito a scappare. E qualcun altro ci dice, ma non è la prima volta che leggiamo queste ipotesi, soprattutto tra gli sms degli ascoltatori che ci arrivano, chissà se anche i carabinieri, la polizia e chi sta effettuando le ricerche, i corpi speciali, hanno pensato a queste ipotesi, che Igor possa in realtà essere morto, e a questo punto la cosa da trovare dovrebbe essere il corpo. Detto ciò, ci sono dei cani che stanno lavorando nella zona, sono dei cani fatti apposta per effettuare questo tipo di ricerche, e forse il corpo l'avrebbero trovato, e l'avrebbero trovato abbastanza facilmente. Vedremo, ripeto, come andrà a finire questa vicenda. Intanto andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.